America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24, il carrozzone della Casa Bianca. La Casa Bianca viaggiante è già arrivato a Deauville, in Francia, dove è cominciato il G8, il G8 del 2011. Tematiche in discussione oggi, soprattutto quella economica, la crisi, la necessità di risolvere i problemi congiunturali di alcuni paesi deboli, fragili, come la Grecia, come l'Irlanda, come il Portogallo. Il presidente americano, prima di venire qui, come sapete, è passato per Londra, soprattutto è passato per l'Irlanda, ha ricordato agli irlandesi che l'America li avrebbe aiutati, e dunque indirettamente il G8 li avrebbe aiutati per trovare la forza anche morale per superare la crisi debitoria. Incontri, una cena, ma la giornata importante, secondo me, sarà soprattutto quella di domani, quando si affronteranno in modo più definitivo le questioni legate alla rivolta nel mondo arabo, alla pace in Medio Oriente, alla necessità di sostenere i ribelli libici. Il messaggio su questi argomenti è stato già chiaro, lo ha dato Barack Obama ieri a Londra in un discorso solenne nella grande sala storica di Westminster. E dunque andiamo a sentire cosa ha detto il presidente americano ieri, perché ha portato dei messaggi secondo me piuttosto significativi, non soltanto per quel che sta capitando nel Mediterraneo, ma anche per le relazioni fra Stati Uniti ed Europa. I am told that the last three speakers here have been the Pope, Her Majesty the Queen and Nelson Mandela, which is either a very high bar or the beginning of a very funny joke. Avete sentito il presidente americano? Scherza in questo caso, scherza anche forse per sdrammatizzare all'inizio di questo suo discorso un evento davvero straordinario sul piano coreografico. Finora è capitato solo a pochi leader in un secolo di essere invitati a Westminster davanti al Parlamento britannico riunito, e dunque lo stesso Obama, come avete sentito, ha scherzato su questo e ha detto, dice gli ultimi tre sono stati la regina Elisabetta, Nelson Mandela e Papa Benedetto XVI. E poi subito dopo dice, aggiunge, o per me la barra è altissima o forse questo è solo l'inizio di una barzelletta divertente. Ecco, la sala naturalmente è scoppiata a ridere ed è stato un modo per rompere il ghiaccio nella solennità del momento. Ma vorrei farvi ascoltare un altro passaggio del discorso del presidente, secondo me molto molto significativo. The time for our leadership is now. It was the United States and the United Kingdom and our democratic allies that shaped a world in which new nations could emerge. And even as more nations take on the responsibilities of global leadership, our alliance will remain indispensable to the goal of a century that is more peaceful, more prosperous, and more just. È un punto chiave di questo discorso, perché Barack Obama di fatto scopre l'Europa. Le sue parole, quelle che vi ho fatto ascoltare, sono state significative perché non hanno soltanto espresso chiaramente un rafforzamento o comunque confermato la forza del rapporto fra Stati Uniti e Gran Bretagna, ma lo hanno allargato al contesto europeo. Ed è questo che dice il presidente. Dice: è sbagliato pensare che la crescita di paesi come la Cina, l'India, il Brasile possono significare la fine della leadership americana ed europea. Anche se altre nazioni assumono responsabilità per la leadership globale, la nostra alleanza, i nostri valori resteranno indispensabili. Ha evocato dunque la democrazia, l'economia di mercato di Adam Smith, che ha menzionato in termini espliciti davanti al Parlamento britannico, e dunque ha riportato l'Europa che finora, devo dire, in questi due anni era rimasta indietro rispetto a quelle che sembravano le precedenze dell'America di Barack Obama, un'America del XXI secolo già proiettata, si diceva, in un contesto globale diverso, in un contesto globale globale che chiudeva definitivamente con la guerra fredda, con la seconda guerra mondiale, e si muoveva nella nuova dimensione che vede come protagonisti Cina, Brasile, India. Ma il punto centrale del presidente è che, nonostante tutto, quando poi si deve far rispettare una risoluzione dell'ONU, quando si deve cercare lo sviluppo economico, quando si deve salvare qualcuno dalle difficoltà economiche, alla fine a intervenire sono sempre gli Stati Uniti e i paesi europei. I just want to underscore, this is not the United Kingdom and the United States alone. We have a broad range of partners under an international mandate designed to save lives. In queste parole che vi ho fatto ascoltare, Barack Obama si è trasferito, non è più a Westminster, dove ha parlato nel pomeriggio di ieri, ma è a Lancaster House. E in questa conferenza stampa congiunta, dopo la giornata di dialogo, di lavoro, Barack Obama ha affrontato la questione del mondo arabo. Il mondo arabo non potrà procedere lungo la strada della democrazia se non avrà degli aiuti concreti. Ultimo punto, la Libia. Gheddafi se ne deve andare al più presto, ha detto Barack Obama, ma soprattutto il presidente ha detto: non abbiamo armi segrete nascoste in un hangar che possono risolvere la situazione. Aiuteremo i ribelli, questi ribelli hanno fatto progressi straordinari, ma non manderemo truppe di terra. Forse ci vorrà più tempo, ma le cose procederanno nella direzione giusta, in modo stabile, e alla fine saranno i ribelli a doversi assumere la responsabilità del cambiamento. Ecco, un punto fondamentale questo, perché non è l'approccio interventista, diretto, preventivo di George W. Bush, che prevedeva un'imposizione di cambiamento di regime dall'alto, ma è un approccio reattivo di appoggio a una rivolta che parte invece dal basso. Questa modifica della posizione americana è forte, e l'occasione per affermare l'approccio soft per il regime change, soprattutto in Libia, è ora nelle mani degli otto grandi a Deauville, e credo che lo ascolteremo domani. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da seguire in questo viaggio, continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook, ed eccoci alla canzone del giorno. Lo Smithsonian ha acquistato The Mothership, la famosa navicella spaziale usata dai Parliament Funkadelic nel corso di un concerto ormai leggendario. L'astronave sarà esposta al National Museum of African American History e diventerà parte di un'esposizione permanente. Ascoltiamo dunque un vecchio successo della band Parliament Funkadelic, One Nation Under a Groove. Ready or not, here we come, getting down on the one which we believe. Dalla Casa Bianca viaggiante al seguito di Obama è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. America 24.